Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona giornata e soprattutto buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali e i mensili in edicola. C'è un argomento che magari suonerà frivolo, suonerà in qualche modo leggero per qualche ascoltatore, ma che davvero ha invaso in modo, ha dilagato, potremmo dire, su tutti i settimanali e le riviste di questa settimana, ed è il matrimonio tra William e Kate che si sta appunto per svolgere, al quale ci avviciniamo. Il matrimonio si svolgerà il 29 di aprile, lo ricordiamo solo per i più distratti, perché in realtà questo matrimonio sta crescendo nell'attenzione dei media giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Davvero questa che si conclude oggi è stata la settimana in cui l'argomento è esploso un po' su tutte le riviste, non solo quelle magari più orientate al pubblico femminile e quindi forse più sensibili al tema, ma anche su riviste di altra natura. Noi comunque vi proponiamo un percorso minimo, in realtà, perché se volete del matrimonio di William e Kate davvero si parla un po' dovunque, percorso minimo che cominciamo da una rivista femminile, Donna Moderna, Questo amore è splendido. Valeria Colavecchio segnala dalle pagine di Donna Moderna appunto una serie di ultimi gossip relativi al matrimonio, questo matrimonio del secolo, e tra l'altro Donna Moderna propone anche un QR, cioè uno di quei quadratini con punti bianchi e neri che consentono, grazie a un cellulare, di andare a vedere poi il video ufficiale del fidanzamento tra William e Kate, per chi fosse appunto interessato. All'evento è dedicato anche un libro che sta uscendo, preparato da Alfonso Signorini, che si intitola appunto La favola di William e Kate, ma la dimensione fiabesca di queste nozze è abbastanza evidente. Allora, vi leggo qualche cosa da Valeria Colavecchio. Dice: gli ultimi gossip dicono che le torte nuziali saranno due, una sarà al cioccolato e biscotti e sarà preparata con una ricetta segreta della famiglia reale. Poi le musiche della cerimonia saranno messe in vendita su iTunes. Per i fan più sfegatati c'è anche un sito web ufficiale con i dettagli del corteo e dell'abito della sposa. Il sito si chiama, se volete prendere nota, lo trovate se no su Donna Moderna, www.officialroyalwedding2011, scritto in cifra.org. Questo è il sito ufficiale del Royal Wedding, appunto del matrimonio reale. La febbre per le nozze del secolo tra William d'Inghilterra e Kate Middleton, che è in programma appunto questa celebrazione in programma per il 29 aprile, è alle stelle. Non si tratta solo di un matrimonio reale, ma di un amore reale e autentico. Anche la TV si scatena, riferisce sempre Valeria Colavecchio, dice: alla data fatidica mancano 15 giorni, però il conto alla rovescia è già iniziato. Se volete vivere giorno per giorno le emozioni dei preparativi, c'è uno speciale che si chiama Aspettando William e Kate su Wedding TV. Beh, il canale non poteva essere più azzeccato, Wedding TV, canale 426 di Sky. È proprio un programma dedicato ai preparativi della cerimonia. E poi naturalmente il 29 aprile ci sarà la trasmissione della cerimonia e Mondovisione. Per l'Italia viene qui segnalata la 7 dalle 11.30, poi c'è appunto il sito di cui vi parlavo, royalwedding2011.org. Questo per quanto riferisce Donna Moderna. In realtà, curiosando qua e là tra le riviste, ci sono anche dei commenti non troppo lusinghieri a questo momento fiabesco di William e Kate. Ad esempio, Annalena Benini, nella sua rubrica Fuori Ordinanza, che conclude il numero di Panorama, conclude sempre il numero di Panorama, questa settimana proprio si concentra su queste nozze e parla di una principessa in provetta, cioè lascia intendere che questo matrimonio con William d'Inghilterra sia stato fortemente voluto e preparato, specialmente grazie alla tenacia della madre di Kate. Vi leggo qualche passaggio appunto dalla rubrica della Benini su Panorama. Dopo tutta la fatica che ha fatto la madre, scrive la Benini, per sposarla bene, si spera che Kate viva per sempre felice e contenta come nelle favole, col suo principe biondo e vagamente equino, corona in testa, valletti che l'aiutano nella vestizione, balli di beneficenza, contegno da tenere da qui all'eternità, e così via nella descrizione. Ma qui viene la vera protagonista della rubrica, che è Carol Middleton, la madre di Kate, ex hostess completamente soggiogata dal fascino della corona, Donna d'affari, la descrive la Benini, da sempre a dieta, in previsione di nozze e regali. Tiene nello screensaver, nel salvaschermo del cellulare, non la foto del cane o delle figlie, ma quella di William, e in cantina tiene il vino preferito del futuro genero. Ha iscritto lei, la figlia, alla stessa università del principe, le ha comprato casa a Londra, in contanti, affinché Kate potesse stargli vicino, le ha ordinato di imbottirsi di antistaminici per sopportare l'allergia ai cavalli e partecipare alle battute di caccia che tanto piacciono a William. Ancora tra le attività appunto della madre, della futura sposa, le ha organizzato viaggi strategici, l'ha programmata fin da piccola affinché coltivasse un unico obiettivo: diventare una principessa, essere l'evento più seguito della storia della televisione. Ce l'ha fatta, ha vinto la sua battaglia per la scalata sociale a mani nude. Questo il commento un po' sarcastico di Annalena Benini a proposito di queste nozze del secolo che si avvicinano. E un tratto originale per chiudere con questa parata reale di nozze reali, appunto, viene offerto dal venerdì, l'avete trovato in edicola con Repubblica, perché il venerdì mette a confronto, forse cercando anche di differenziarsi dalla enorme offerta di articoli su questo tema, mette a confronto due nozze reali: quelle che appunto ci saranno il 29 aprile a Londra e quelle che ci saranno invece il 2 luglio a Monte Carlo. Due matrimoni mediatici, dopo lo shock di Lady Diana, le follie delle sorelle di Monaco, che segnano un ritorno alla tradizione. Il lavoro di confronto è stato condotto da Laura Laurenzi e Paola Zanuttini, e poi ci sono all'interno altri commenti. Una sorta di vite parallele delle due principesse, Catherine Elizabeth Middleton, questo il nome completo di Kate, ormai più familiarmente Kate Middleton, è nata il 9 gennaio del 1982 a Reading, in Gran Bretagna. Nel 2001 si è iscritta all'università, dove poi si è laureata in storia dell'arte, dove ha conosciuto William di Windsor. Al secondo anno di corso hanno convissuto nello stesso appartamento, però viene precisato con altri studenti. Nel 2006 poi ha lavorato per una catena di boutique. Nel 2007 si sono lasciati, lei e William si sono lasciati e poi si sono riconciliati. E infine nel 2010 l'annuncio del fidanzamento. L'altra promessa sposa si chiama Charlene Wittstock, è nata nello Zimbabwe il 25 gennaio del 1978, nell'89 si è trasferita a Durban in Sudafrica ed è un'atleta, infatti era nella staffetta di nuoto 4%, che arrivò quinta alle Olimpiadi di Sydney nel 2000. Si è poi ritirata nel 2008 dopo un infortunio, però proprio nel 2000, vincendo la gara di nuoto del meeting di Monte Carlo, ha conosciuto Alberto, che l'aveva premiata, e infine nel giugno 2010 c'è stato l'annuncio del fidanzamento, che tra l'altro poi ha coinciso con la conversione al cattolicesimo, perché Charlene Wittstock era protestante e è tornata in qualche modo alla religione cattolica. Vi leggo solo qualche breve tratto dell'articolo che mette appunto in parallelo queste due future principesse: 1 milione di persone per le strade di Londra e 2 miliardi nel mondo incollate davanti alla TV, 2 miliardi di spettatori. Kate batte Charlene nelle previsioni, il Royal Wedding inglese ha già eclissato quello di Monte Carlo. Eppure a Monte Carlo si sposa il sovrano, mentre a Londra convola a nozze il figlio della regina. Però William, il miglior partito del mondo, è anche il figlio di Lady Di, cui somiglia in modo carismatico, e carisma, personalità e classe sta sguainando Kate Middleton, la commoner che ha saputo aspettare in silenzio e a lungo. Sarà la prima borghese impalmata da un futuro re d'Inghilterra dal 1659. Il precedente è quello di Anna Hyde, che si sposò con Giacomo, duca di York, poi venne incoronato con il nome di Giacomo II. Sarà la prima laureata e anche la prima che da fidanzata convive more uxorio con il futuro marito. Pardon. Entrambe sono cenerentole, scrive ancora Laurenzi sul venerdì, ma di famiglia agiata. Entrambe sono portatrici sane di normalità indispensabile per rigenerare la monarchia e avvicinarla alla gente. Entrambe chiamate a incarnare la sposa da sogno nel matrimonio da sogno, protagoniste di sontuose cerimonie da offrire alle masse, un favoloso diversivo rispetto ai guai, alle gaffe, agli scandali, alle brutte figure dei rispettivi casati. Vedi le pessime frequentazioni del principe Andrea, che è lo zio di William, o i ricatti che Alberto, due figli, una da una cameriera statunitense e l'altro da una hostess del Togo ha dovuto subire da un ex agente dell'FBI in possesso di materiale compromettente. Davvero, la rassegna stampa, se volessimo concentrarla anche solo sulle nozze del secolo, appunto quella del 29 aprile, potrebbe continuare a lungo. Io vi rimando appunto al venerdì per questo parallelo originale e alle altre riviste che comunque aspettano questa data del 29 aprile, in cui, come ci avvisa il venerdì, 2 miliardi di persone seguiranno in tutto il mondo le nozze di William e Kate. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Abbiamo parlato a lungo del matrimonio del secolo, quello che si celebrerà il 29 aprile tra William e Kate a Londra, un matrimonio che in qualche modo sta incuriosendo un po' tutti, ha effettivamente molti elementi per suscitare curiosità, al di là dell'aspetto fiabesco, ma anche la dimensione mediatica, la copertura appunto dei mezzi di comunicazione di questo evento è già di per sé un elemento che può suscitare la nostra curiosità. Adesso veniamo ad argomenti decisamente meno leggeri di questo, meno fiabeschi di questo. Ad esempio, su Vita questa settimana un approccio inconsueto e penso molto utile alla questione degli immigrati, dei migranti, come si usa anche definirli. Per noi italiani un problema di queste settimane, un problema molto sentito e anche con forti tensioni politiche. Marco Bendettelli, su Vita di questa settimana, ci racconta i migranti degli altri, i migranti della Tunisia, perché la Tunisia, che noi siamo abituati a vedere come un luogo da cui partono gli immigrati, alla volta appunto di Lampedusa o di altre coste italiane, beh, in realtà è un paese che sta subendo pesantemente le conseguenze della guerra in Libia e subendo un'ondata migratoria notevole. Spiegano appunto su Vita: alla frontiera di Ras Shahdir scappano dalla Libia in media 3.000 persone ogni 24 ore. In tutto sono scappati in 230.000, sono lavoratori stranieri in fuga dalla guerra, bengalesi, pakistani, nigeriani, ivoriani, somali. Ad accoglierli ci sono i volontari della Mezzaluna Rossa, una macchina della solidarietà sempre in funzione. Allora, questi migranti degli altri fanno effettivamente impressione, forse ci fanno anche riflettere su che cos'è questa ondata di persone in cerca di salvezza, in cerca di una vita migliore, che si sta muovendo nel Nord Africa. Dicevo appunto, più di 230.000 persone fuggite dalla guerra senza pausa, 85.000 solo all'inizio del conflitto, un fiume ininterrotto, scrive sempre Bendettelli, punte di 5.000 fuoriusciti al giorno nell'ultima settimana. Chi sono? Sono ex operai africani assunti dai cantieri cinesi in Libia, manovali bengalesi, commercianti indiani, uomini, famiglie. Nella maggior parte sono ex immigrati richiamati in Libia dal boom economico che la politica degli accordi finanziari stipulati dal Rais aveva innescato negli ultimi anni. Tutte persone che ora scappano dal fuoco e dalla guerra. Ci sono poi delle storie che Bendettelli ha raccolto, ad esempio quella di questo giovane che dice: vivevo a Tripoli da 13 anni, facevo l'orafo, è un pakistano, si è fatto accompagnare al confine da un minibus, ha appena lasciato alle sue spalle le bandiere verdi appese sul lato libico del checkpoint. Prosegue questo ex orafo: la Libia era la mia patria, avevo cibo e lavoro, stavo bene, poi è scoppiata la guerra, decidere di andarsene è stato doloroso, so che qui al confine ci sono dei campi profughi dove sistemarmi, vediamo poi cosa succederà, tornerò in Pakistan, è l'unica cosa che posso fare. E ancora, il campo ci spiega, questo campo profughi dove arriva questa marea di persone in fuga, funziona grazie soprattutto all'incredibile slancio della solidarietà tunisina, sono i numerosissimi volontari della Mezzaluna ad avere la leadership delle operazioni. E ci sono persone che vengono da Tunisi, che sta a 600 km più a nord, nei fine settimana e portano cibo e vestiti. I libici, per concludere da questa citazione appunto di Bendettelli sui migranti, che potremmo dire i migranti degli altri, i libici che hanno abbandonato il paese sono circa 40.000, vivevano quasi tutti sul confine con la Tunisia, ora sono riusciti a trovare ospitalità da amici e parenti oltre frontiera, quindi non sono solo gli immigrati che erano in Libia per lavorare a fuggire dalla guerra civile, ma sono anche proprio persone libiche nate e cresciute in Libia che se ne vanno via dalla guerra. E poi ci sono i tunisini che sono tornati in patria, si calcola che siano circa 35.000. Questa inedita fotografia del problema dei migranti nordafricani, la trovate su Vita di questa settimana. E allora, visto che stiamo parlando di queste vicende turbolenti del mondo arabo, una citazione da Le Monde Diplomatique. Vi ricordo che Le Monde Diplomatique lo trovate in vendita con il manifesto, lo trovate per tutto il mese di aprile, tra l'altro con questo bel lavoro di raccolta delle contromisure che in qualche modo nel Nord Africa i vari poteri, i vari regimi hanno preso per cercare di sedare, di prevenire le rivolte. Il lavoro di collazione è stato fatto da Jean-Pierre Serigny e viene proposto, naturalmente tradotto in italiano, da Le Monde Diplomatique che accompagna il manifesto. È curioso notare come molto si sia giocato sulla amministrazione pubblica, cioè sul fatto di offrire impieghi pubblici. Questa è una costante che ritorna in molti degli stati che vengono esaminati da questo lavoro. In Algeria, tra le varie misure, c'è appunto il fatto di avere quasi quadruplicato lo stipendio dei professori universitari, che è passato da 50.000 a 200.000 dinari, cioè prima era di 500 euro, adesso è di quasi 2.000. E poi sono stati stanziati 20 milioni di euro per delle misure sociali più generali, in particolare per dei prestiti, per prestiti a interesse zero a favore dei giovani. In Arabia Saudita è stato deciso tra l'altro un una tantum, di erogare un una tantum equivalente a 2 mesi di stipendio per tutti i funzionari, poi un sussidio per tutti i disoccupati e aumentare il salario minimo a 560 euro. Inoltre sono stati erogati crediti per 500.000 alloggi, sono stati assunti 60.000 funzionari di polizia, qui con il duplice scopo appunto di ridurre la disoccupazione ma anche di poter aumentare il controllo. Le misure politiche che pure accompagnano questo specchietto vedono però nel catalogo appunto riferito all'Arabia Saudita una desolante nessuna misura politica per prevenire, per contenere le rivolte, le proteste. In Giordania ancora sono stati creati 21.000 posti di lavoro nel settore pubblico, 6.000 di questi, come abbiamo visto per l'Arabia Saudita, proprio nella polizia e nella gendarmeria. In Kuwait, stato decisamente più piccolo, ogni cittadino riceverà un una tantum di 2.647 euro e poi è stata decisa la distribuzione gratuita di razioni alimentari per un valore totale di 600 milioni di euro. L'elenco che trovate su Monde Diplomatique continua lungo, ci sono anche appunto i casi del Bahrain, della Giordania, della stessa Libia, anche se qui le misure, come abbiamo visto, poi non hanno avuto l'effetto che si immaginava il Rais. Era stata varata una concessione di una sovvenzione di 324 euro per famiglia, con aumenti per i salari di alcune categorie del settore pubblico. E poi ancora quello che è stato deciso in Marocco, in Siria, nell'Oman e nello Yemen. Tutto questo sulle Monde Diplomatique, i tentativi dei poteri del paesi arabi e del Nord Africa di contenere le proteste, di contenere appunto le rivolte in qualche caso che si sono scatenate in questi ultimi mesi. E allora, con questa citazione, il tempo a nostra disposizione si è pressoché esaurito. Abbiamo ancora un minuto che ci serve a fare soprattutto 3 cose. La prima è, naturalmente, come è doveroso, ringraziare Paolo Corleoni anche questa domenica mattina qui con noi in regia. E poi grazie come sempre a Danita Panizza che mi aiuta a preparare questo programma, a selezionare gli argomenti ricorrenti o gli argomenti più diversi che troviamo di volta in volta sui vari magazine, sulle varie riviste. Vi ricordo che Magazine 24 ha anche una casella email, se volete scriverci, se volete farci delle domande, volete mandarci delle segnalazioni, lo potete fare al magazine, scritto magazine naturalmente, 24, scritto in cifra, 24, @radio24.it. Se poi volete informazioni sui programmi della nostra radio, potete contattare il nostro sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica a tutti.